Letture di Radio 24. Il balconing, l'assurda moda di lanciarsi da un balcone all'altro per divertimento, ha fatto la sua prima vittima italiana. Dalle pagine del Corriere della Sera, Beppe Severgnini lancia un appello ai genitori, soprattutto a quelli che non si rendono conto che i propri figli non sono più in grado di divertirsi in modo normale. Se mi chiedessero qual è il compito principale degli adulti nei confronti dei ragazzi, direi permettere che invecchino e non s'ammazzino prima. Ma chi si lancia da un balcone per un po' di gloria su YouTube, cosa vuoi dire? Il fenomeno del balconing, una colossale idiozia internazionale, non poteva non avere un nome inglese, sta diventando una piaga. Quest'estate già 6 vittime tra i giovani turisti alle Baleari. L'ultima nel fine settimana, un italiano di 26 anni è morto a Ibiza, caduto da un terrazzo al 7° piano di un albergo in circostanze non chiare. C'è chi scivola e chi si butta cercando di centrare la piscina di sotto, chi vuol saltare sul balcone delle ragazze e chi fa l'equilibrista a 20 metri d'altezza. Rimbambirsi in disco, bere fino a stordirsi, strafarsi di pasticche, lanciarsi dal balcone e chiedere a un amico di filmare l'impresa col cellulare. Insulti e moralismi, le reazioni più umane di fronte a comportamenti del genere, non servono. Bisogna cercare di capire il movente. Ricerca di emozioni forti, emulazione, esibizionismo, gusto del rischio, la sensazione di essere invulnerabile. Moventi antichi, che nei secoli hanno spinto i ragazzi a lanciarsi contro le pallottole, tra gli applausi degli adulti che li avevano mandati in guerra, a giocare alla roulette russa, a guidare a fari spenti nella notte, a fermarsi sull'orlo di un precipizio, a buttar giù di tutto a patto che facesse male. In cambio, non sempre, una canzone, un romanzo, un film e la disperazione muta dei genitori e dei conoscenti che non capivano. Ora possiamo fare un regalo ai ragazzi, la possibilità di sbagliare ancora, perché chi muore di sicuro non sbaglia più. Per far questo dobbiamo accettare di essere informati, spiacevoli e impopolari. Informati. Molti genitori, me ne sono reso conto, non sanno cosa sono d'estate Ibiza e l'isola greca di Ios. Posti tossici, dove divertirsi in modo normale è difficile da grandi, impossibile da adolescenti. Se ci vogliono andare, impediteglielo. Convinceteli, corteggiateli, corrompeteli, mettete loro in mano i soldi per andare altrove. Spiacevoli, un ragazzo di 20 anni non vuole sentirsi dire che è uno sciocco, anzi, non vuol sentirsi nemmeno dire cosa fare, dove andare e chi vedere. Ma nei film d'azione sono gli stuntmen a lanciarsi dai balconi, spesso al pian terreno, al resto si pensa in montaggio. Diteglielo. Si offenderà, protesterà, dirà che anche noi da ragazzi abbiamo combinato scemenze. Rispondete, erano scemenze meno sceme, tant'è vero che siamo ancora qui. Impopolari. Gli adulti sono troppo impegnati a sentirsi giovani per occuparsi dei giovani, ma se lo facessero e scoprissero cose gravi, dovrebbero arrabbiarsi e battersi. È vero, porta via tempo al burraco, al calcetto, alla cena con gli amici, ma è tempo ben speso. Non serve a niente? Ci abbiamo provato. Altrimenti c'è il rischio di pensare, fossimo stati informati, spiacevoli e impopolari, su quel balcone non sarebbero saltati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Beppe Severgnini, Noi adulti e quella follia di volare dai palazzi, dal Corriere della Sera del 13 settembre. Letture di Radio 24. Troppo povera per essere madre. E i servizi sociali le portano via la figlia, che ora è stata dichiarata adottabile. Intanto sale la protesta in rete e c'è chi parla di rapimento di Stato. È finita peggio di com'era cominciata la storia della neonata di Trento, strappata dai giudici a una madre troppo povera e incapace di garantirle una vita e un futuro decenti. 2 mesi dopo il furto, la sentenza chiude il caso con un finale ancora più orribile. Quella bimba è adottabile. Un invito agli aspiranti genitori e alle mamme d'Italia sterili, ma desiderosi di figli, a farsi sotto e a presentare regolare domanda. D'accordo, lo stile è brutale, ma è il solo adatto a definire quello che hanno combinato i giudici del Tribunale dei Minori. Prima il ratto della bambina dalla culla, poi la sua messa in vendita sul mercato delle adozioni. Riassumiamo i fatti. Le avevano sottratto la neonata subito dopo il parto, avvenuto 2 mesi fa a Trento. E da allora la mamma non ha più potuto vederla né avere sue notizie, forse perché per i giudici trentini l'amore materno ha un prezzo e di sicuro, pare, superi i 500 euro al mese, cioè il reddito della poveretta. Non serve che la giovane non sia tossicodipendente, non abbia malattie contagiose o pericolose per la sua creatura, è solo povera. Lei ha parlato, ha spiegato, ha chiesto, ha promesso di amare e di cercare aiuto per mantenere al meglio la sua creatura. Avrebbe accettato anche un affido condiviso. Niente da fare. Il tribunale ha invece dato avvio alla procedura di adottabilità e ieri ha stabilito che l'adozione si può fare subito, in anticipo sui termini stabiliti dalla legge. Dunque, sembrano suggerire quei giudici, la sciagurata se l'è andata a cercare. Quando si era rivolta ai medici, questi l'avevano caldamente consigliata di abortire, di disfarsi del bimbo che aveva in pancia. Insomma, chi è povero ma non accetta di ammazzare il figlio in grembo, non si lagni se poi succede quel che succede. Devono averla pensata così anche le assistenti sociali che hanno stilato l'incipite del romanzo criminale trentino. E neppure si sono fatte sfiorare dal dubbio se dichiarare una madre incapace e sottrarle il figlio assomigliasse molto da vicino all'esecuzione di una condanna di morte. E poi c'è la disinvoltura di un tribunale che sputa una sentenza da brividi mentre fa della gravidanza un privilegio, un diritto variabile, concesso solo a chi ha un CUD sopra il livello di povertà. Gli altri non si azzardino e per chi sbaglia c'è sempre l'aborto. Per questi signori la povera mamma trentina è colpevole di immaturità, povertà materiale ed emotiva, aggravate dall'avvio della gravidanza come elemento di fragilità, colpa e incoscienza. Quel che è peggio, ammesso che vi sia ancora un peggio nella vicenda, è che la sentenza se ne infischia della stessa legge, che definisce lo stato di adottabilità di un minore come l'ultima spiaggia, quando cioè tutte le carte del mazzo sono ormai bruciate. Non era così a Trento, la soluzione c'era, l'affidamento. A finire bruciate invece sono state la pietà e la compassione umana assassinate da un insensato e assurdo rigore burocratico. E ora, chi potrà mai risarcire la bimba per la crudeltà consumata nei primi istanti della sua venuta al mondo? Chi calcolerà i danni e le sofferenze che dovrà sopportare per quel furto sacrilego? Le è stato impedito perfino il primo rapporto fisico con il corpo della madre e se già il parto è un trauma, la separazione successiva è un'esperienza ancora più devastante. Non occorre avere una laurea in pediatria per sapere che il legame tra madre e figlio inizia già nel periodo prenatale, che i primi mesi sono fondamentali per lo sviluppo successivo, che il bambino riconosce la madre anche dall'odore e dal suono della voce. Basterebbe parlare con chi ogni giorno deve curare ferite inferte all'infanzia. Strappati alle madri ci sono bambini che perdono lo schema corporeo, non sanno quali sono i confini del loro corpo, si perdono i passaggi fondamentali dell'imparare a comunicare. Ferite insanabili per tutta una vita. Certo, i giudici devono agire in base alle leggi e alle norme, mica sui buoni sentimenti o i gusti dell'opinione pubblica. Giusto, ma a Trento è successo qualcosa che non ha niente a che vedere con la giustizia imparziale e il rispetto dei codici. Qualcuno si è arrogato il diritto di decidere del futuro di una mamma e della sua figlioletta, contro ogni legge. Ci sarà mai un tribunale che li giudicherà? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Sant'Ambrogio «Si rifiuta di abortire, via la figlia perché è povera», da Libero del 10 settembre. Contro i professori fantasma arriva la proposta di misurare con i punti la loro attività. Ma sarà davvero efficace? Con cautela, ma qualcosa finalmente si muove nel mondo, fino ad oggi intoccabile, dei professori d'università. Per autodeterminazione, come non potrebbe essere altrimenti. Da Palermo arriva una proposta di delibera del Senato accademico che disegna una complessa tabella oggettiva a punti per misurare soprattutto la quantità dell'attività didattica dei docenti. Viene calcolata la mole del lavoro nel numero delle lezioni frontali, dei seminari o degli insegnamenti supplementari tenuti, della funzione di tutorato nei confronti degli studenti, del numero delle tesi di laurea seguite da relatore o controrelatore in un anno, nonché della partecipazione ai vari consigli e delle cariche istituzionali sostenute. E un punteggio viene assegnato anche al gradimento dell'insegnamento da parte degli studenti, fino a 4 punti, che non sono pochi rispetto ai 3 per un carico di lezioni medio di 90 ore. C'è una soglia minima di punteggio fissata per ora in 14 punti che prevede delle sanzioni. Chi si trova sotto questo livello non potrà presentare, per esempio, la sua candidatura alla presidenza di un organo collegiale, ma soprattutto a lui sarà interdetto di avere incarichi esterni retribuiti. Non si parla di licenziamento o di decurtazione di stipendio, neppure di scudisciate morali. Tuttavia, qualche attenzione i baroni, abituati a delegare ai subalterni il lavoro didattico, dovranno pur averla. Voglio dire che tanti professori fantasma che svolazzano nei nostri atenei dovrebbero almeno un minimo concretizzarsi. Adattarsi a fare un corso di almeno 90 ore, bazzicare le sedute dei consigli almeno una volta su 3, seguire un minimo di 6 tesi di laurea, nonché consegnare i documenti di autocertificazione di tutto ciò. Questo è il punto debole della proposta. I professori fantasma sono abili nel certificare ciò che non fanno. Per togliergli quel vizio si potrebbe decretare il licenziamento in tronco per falso palese in atto pubblico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giorgio De Rienzo con l'idea dei professori appunti una sveglia all'università, dal Corriere della Sera del 10 settembre.